Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ci siamo dati un due sguardi, anche Paolo che mi faceva con gli occhi tipo no, e quindi abbiamo fatto capire che non era il caso, e questa ragazza è stata salutata e andata da qualcun altro. Così, per tutta la vacanza, siamo stati molto attenti e prudenti, e tutto è filato liscio, anche a discapito di qualche possibile avventura e divertimento. Storie di un viaggio tra amici e di una donna giudicata irraggiungibile in una puntata che si intitola Eccesso di prudenza. Un bicchiere e nient'altro. Non fare il cafone. Bevi il tuo bicchiere, ma fallo in fretta. Di buonanotte e vai a casa. Questo è un test sulla moralità di una persona. Se riesce o no a continuare ad essere leale. Perché essere leali è molto importante. Perciò tu ora vai fuori e dici buonanotte, ho passato una bellissima serata. Fini la porta, entri in macchina, vai a casa, ti fai una sega e finisce la storia. Compie 26 anni esatti questo film. Pulp Fiction era il 1994 quando uscì nei cinema e in qualche modo stravolse il mondo del cinema, stravolse il modo di fare regia, di raccontare le storie. Non sono un esperto di cinematografia, sono uno che è andato tanto al cinema, adesso un po' meno negli ultimi tempi, però quel film me lo ricordo benissimo, mi ricordo tutto quello che accade quel giorno al cinema VIP di Novara, quando insieme agli amici Davide e Federico andammo a vederci questo film con John Travolta, che per noi apparteneva, era veramente un retaggio degli anni 70. Ce lo ricordavamo quando eravamo dei ragazzini e lui l'avevamo visto nei film che ci avevano indicato i nostri genitori, no? La febbre del sabato sera e quella roba lì, cioè era un attore che ballava più che altro. Eppure questa scena è una delle scene con una Uma Thurman meravigliosa, giovanissima, bellissima. Questo pezzo è tratto da Pulp Fiction. Abbiamo deciso di aprirci la puntata perché si intitola Eccesso di prudenza. Sembra un eccesso di prudenza quello di John Travolta in questo film, poi in realtà succede esattamente il contrario, per cui se insomma andate a vedervelo il film se non l'avete visto, non credo, mi sembra difficile che non l'abbiate visto, però tant'è, se non l'avete fatto andate a guardarvelo immediatamente. Questa è Linee d'Ombra, il programma che vi racconta tutti i giorni delle storie che hanno un confine nel mezzo, cioè hanno una linea di separazione tra qualcosa che è accaduto prima e qualcosa che è accaduto dopo. Se avete voglia di importante, ovviamente, se avete voglia di mandarci una vostra storia, linee d'ombra@radio24.it, noi ogni giorno ne prendiamo una e ci facciamo una puntata. È il caso proprio delle storie di oggi che raccontano di due amici molto molto prudenti in viaggio, prudenti fino a tanto così dall'arrivo, poi quando gli manca tanto così mandano tutto in vacca e ciao. E poi c'è una storia invece di una prudenza eccessiva in amore. Capita, sapete quando quando stiamo per innamorarci e facciamo una cosa che facciamo sempre, cioè cominciamo a raccontarlo a tutti, cominciamo a raccontare di quell'incontro, di quell'uomo, di quella donna che abbiamo conosciuto, di come siamo stati quella sera, e sta cominciando ad accadere, però ci sono magari delle nubi, no? Lui o lei sono sposati, lui o lei vivono lontano, oppure sono molto diversi, e allora di solito intervengono gli amici che dicono forse è meglio lasciar perdere, guarda, ma no, lascia perdere. E tu lo sai dentro di te che è impossibile lasciare perdere, perché se qualcosa è partito, ci sei già dentro, se lo stai raccontando ci sei già in mezzo, e quindi è difficilissimo fermare quella cosa lì. E invece nella storia di oggi che Mauro Pescio ha raccolto alla sua serata che fa a Roma, che si chiama Mio Cugino, si racconta esattamente una storia come quella di un eccesso di prudenza in forse è meglio non entrare in questa storia e trovare una scusa per starne fuori, nonostante il protagonista sia molto coinvolto. E poi chiudiamo ovviamente con la storia di Antonio Cocco, il giovane uomo che aveva deciso di lasciare il suo paese, lasciare l'Italia per una piccola stupidaggine che gli gli succede a scuola e viene travolto dalle cose, dalla Francia e dalla legione straniera. Insomma, mettetevi comodi. Benvenuti a Linea d'Ombra. Erano i primi anni del nuovo millennio e io e il mio amico Paolo, appena laureati e negli intervalli concessi dal servizio civile, avevamo deciso di condividere diversi viaggi, giusto prima di iniziare a lavorare seriamente e diventare grandi. Come viaggiatori eravamo molto affiatati e ci compensavamo a vicenda. Paolo, abilissimo pianificatore e organizzatore e con un attento occhio al lato economico. Io più improvvisatore e capace di trovare luoghi e situazioni insolite e particolari. Nell'arco di un anno siamo stati a Barcellona, Berlino, in Portogallo e poi a San Pietroburgo a trovare un comune amico, Marco, ingegnere che da un po' di tempo lavorava lì alla costruzione di una nuova linea della metropolitana. Eravamo suoi ospiti in un residence in periferia. I primi giorni sono stati di adattamento ad una realtà nuova, completamente diversa. Per esempio, la prima sera ci siamo fatti fregare dal fatto che in piena estate, a San Pietroburgo, praticamente non viene mai notte fonda. Per cui, dopo aver gironzolato per ore, solo quando è sopraggiunto l'imbrunire, ci siamo resi conto che era ora di cercare qualcosa per cenare, ma era già passata mezzanotte e ormai era tutto chiuso e siamo rimasti a bocca asciutta. Lo stesso discorso valeva per i mezzi di trasporto pubblici che ad una certa ora non circolavano più. Qui la cosa si complicava ulteriormente perché per tornare dove soggiornavamo bisognava attraversare il fiume Neva e spesso durante la notte i ponti venivano sollevati per fare passare le navi e bisognava aspettare le prime ore del mattino per passare o in alternativa fare un giro molto lungo e anche molto dispendioso perché a San Pietroburgo i taxi non erano per nulla economici. Per questo il nostro amico ci aveva spiegato un trucco, era quello di sfruttare i tassisti abusivi. Si trattava di mettersi a bordo strada e allargare un braccio indicando con l'indice per terra. Lo facevano in molti, anche i locali. Marco ci aveva però messo in guardia su vari possibili pericoli. Il primo era che spesso le auto private versavano in pessimo stato e capitava frequentemente che chi le guidava di notte fosse ubriaco. Quindi, quando si fermava qualche veicolo, bisognava fare una rapida valutazione sulle condizioni del mezzo e dell'autista e poi cercare sempre, per quanto possibile, di trattare il prezzo. Questo Marco era un ragazzo che aveva giocato un anno a calcio con noi e aveva stretto soprattutto amicizia con Paolo perché lui giocava in questa squadra da prima di me, no? E lui era ingegnere, è sempre stato in giro, dopo laureato è sempre stato in giro per il mondo, per cantieri e cose importanti come appunto metropolitane, ferrovie, cose del genere. Lui ci ospitava, lo abbiamo visto poco durante la vacanza, anche lui faceva i turni, quindi giusto ci ospitava a casa, aveva fatto qualche pranzo, qualche cena assieme. Altre raccomandazioni riguardavano alcuni gruppi locali di naziskin che prendevano di mira gli stranieri e anche il fatto di cercare di evitare di avere a che fare con la polizia locale, molto violenta e per nulla accondiscendenti con gli stranieri. Il tutto era complicato però dal fatto che difficilmente si aveva a che fare con gente che parlasse anche solo qualche parola, non dico di italiano, ma neanche di inglese. Così, per tutta la vacanza, siamo stati molto attenti e prudenti e tutto è filato liscio, anche a discapito di qualche possibile avventura o divertimento, come per esempio quella notte in cui in un locale avevamo conosciuto due ragazze che, dopo aver bevuto qualche drink, ci hanno invitato a fare il bagno nella neve con loro. Io e Paolo, dopo esserci scambiati qualche occhiata e alcune parole, abbiamo deciso di declinare l'invito. Non era mancato però qualche episodio divertente, come quando siamo andati in un locale che faceva musica latinoamericana perché era scritto che offrivano un drink alle persone di origine latina, ma a noi non lo hanno concesso perché secondo loro gli italiani non erano latini, mentre al nostro fianco un gruppo di filippini si godeva il drink gratuito. O come quando in una strada laterale della prospettiva Nevsky abbiamo scovato un reggae pub e vedendo all'interno un cameriere nero, in perfetto stile rasta, siamo entrati sollevati all'idea di trovare un menù non scritto in cirillico e di poter chiedere, magari capire cosa ordinare, interloquendo in qualche lingua comprensibile. E invece no, anche il nostro Bob Marley dell'Est parlava e capiva solo ed esclusivamente il russo e scorrendo il menù incomprensibile è stato solo capace di pronunciare un entusiasta da, quando fra tante parole in inglese di possibili cibi abbiamo detto eggs, uova. Giunti all'ultima serata, prima della partenza, avevamo deciso di non avventurarci in città, ma di andare ad accompagnare al lavoro Marco, che faceva il turno di notte. Era solo ad un paio di fermate di autobus e avevamo controllato gli orari per prendere l'ultima corsa per tornare a casa. Alla fine facciamo esattamente così. Salutato e ringraziato Marco, siamo arrivati con anticipo alla fermata dell'autobus. Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. All'orario previsto non si vede nessun autobus. Aspettiamo 5, 10, 15 minuti e niente. Non si vede nulla. Decidiamo così di avviarci a piedi. Non era una grande distanza da percorrere, ma non eravamo completamente sicuri della strada e la nostra cartina non copriva quella zona periferica della città e non eravamo ancora in possesso di strumenti come gli attuali smartphone. Camminiamo e quando vediamo in lontananza lungo il viale arrivare un'auto, ripetiamo quasi in automatico quel gesto per farci dare un passaggio, il dito puntato verso la terra. Ormai, evidentemente siamo già in clima post-vacanza e abbiamo lasciato gli ormeggi rispetto alla troppa prudenza. Io ho già in mano una banconota e, ottenuto il passaggio, la do all'autista senza contrattare e senza pensare che sarà circa il quadruplo di quanto davamo di solito. Mi siedo davanti, Paolo si mette dietro. L'auto si avvia e io mi giro verso il sedile posteriore per chiacchierare con il mio amico senza curarmi troppo del nostro autista. L'auto svolta verso sinistra, imbocca uno di quei vialoni da immaginario sovietico, con tre corsie per parte e condomini anonimi che lo affiancano. Io mi domando in maniera distratta se non stiamo per caso viaggiando troppo in mezzo alla carreggiata, ma le strade sono deserte e mi giro di nuovo a parlare. Ad un certo punto colgo uno sguardo preoccupato di Paolo e girandomi verso la strada mi rendo conto che nel viale che stiamo percorrendo a un certo punto inizia un'aiuola alberata che divide i due sensi di marcia e noi siamo proprio in mezzo alla strada. Allora richiamo l'attenzione dell'autista, mi giro verso di lui e vedo che si è addormentato. Dopo che è successo, in effetti ci siamo detti, ma non ci siamo prestato attenzione, che il veicolo era un rottame. Lui era, sì, effettivamente, per addormentarsi, effettivamente riguardato in faccia, ripensato a com'era, sì, probabilmente o era ubriaco, era messo male di suo in qualche modo. Sul momento ci avevamo proprio fatto caso, perché avevamo la testa altrove, non ci avevamo pensato. Lancio un urlo, lui si sveglia, si rende conto di cosa sta accadendo e tenta una sterzata in extremis, ma ormai è troppo tardi. Ho giusto il tempo di vedere il primo albero del filare che ci arriva contro e di accovacciarmi e proteggermi la faccia e la testa con le braccia. Decolliamo sul marciapiede dell'aiuola, finiamo in pieno contro l'albero. Seguono attimi di stordimento, poi sento Paolo che mi strattona e mi tira su per la maglietta chiedendomi concitato: Andrea, come stai? Non ho nulla di rotto, mi pare. Scendiamo veloci dall'auto. La prima immagine che ho è che sul tronco dell'albero c'è appesa una ghirlanda di fiori. E la seconda è che il davanti della macchina è completamente accartocciato attorno al fusto, con i fanali anteriori che praticamente si guardano fra di loro. Ci facciamo un rapido controllo delle nostre condizioni. Io ho solo preso una botta al naso che un po' mi sanguina e una in testa, perché nel contraccolpo Paolo mi ha tirato una testata e infatti lui ha un labbro e il naso sanguinanti. Non possiamo restare lì. Se arriva la polizia, cosa diciamo e come spieghiamo la situazione? Meglio andarsene subito, e così facciamo, attraversando il viale e infilandoci nella prima via laterale. Siamo però un po' titubanti. E il nostro autista? Ci domandiamo. Non avevamo verificato in che stato era e proviamo a guardare verso l'auto incendiata e lo vediamo che scende lentamente e si accovaccia con la testa fra le mani, si tocca la bocca. Vediamo anche che passano prima una macchina, poi un'altra, che rallentano e si fermano a verificare cosa sia accaduto. Sapendo a questo punto che c'è qualcuno che poteva chiamare i soccorsi, ce ne andiamo, ponendo fine in questo modo ad una vacanza dove abbiamo tarato male i momenti in cui essere cauti e prudenti, eccedendo quando probabilmente non serviva e dimenticandocene nel momento in cui occorreva. Intitola Eccesso di prudenza questa puntata, e avete capito anche dalla storia di Andrea come viene applicata all'interno del suo racconto. Io avevo tuttora un'amica che mi raccontava che quando era molto piccola e imparò ad andare in bicicletta, per fare le curve lei scendeva dalla bici, cioè non riusciva a fare le curve, scendeva dalla bici e le faceva a piedi, al punto che i suoi genitori la soprannominarono Prudentina. Non è esattamente il caso di Andrea e del suo amico, perché alla fine la prudenza gli scappa un po' di mano. Pronto, ciao Andrea, buongiorno. Ciao Matteo, ciao, buongiorno. Come stai, tutto bene? Sì, tutto a posto. Sono passati tantissimi anni da allora, o no? Sì, penso che siamo più o meno sulla ventina d'anni. E quando si dice, lo dico per esperienza, quando si dice ormai sono 20 anni fa, vuol dire che la tua vita comincia ad essere abbastanza lunga. Certo. Va così. Si sente anche dal tuo tono. Senti, sì, ci sei più tornato in Russia? No, non ci sono tornato, e credo, parlavo anche con il mio amico Paolo con cui ci risentiamo adesso, che credo che a ritornare adesso la troveremo parecchio cambiata rispetto a quella volta lì. Tu che ricordo hai di un posto ancora molto sovietico? Sì, era molto sovietico, era molto diverso dai canoni a cui siamo abituati noi, che abbiamo, almeno io avevo frequentato essenzialmente città e stati di postazione occidentale, vuoi in Europa, vuoi negli Stati Uniti, e quello era veramente un posto diverso. Senti, la tua storia, devo dire che soprattutto nella parte dell'incidente non mi giunge nuovissima. Il web, YouTube, è pieno di video di incidenti proprio nelle strade russe. Non so se ti è mai capitato, se digiti dashboard cam Russia, no. Credo che i russi le montino proprio perché ci sono un tale numero di incidenti sulle strade russe, sulle strade delle città sovietiche, che per potersi, come dire, per far capire all'assicurazione, a chi per loro, che loro hanno ragione, riprendono tutto, ed è pieno di questi video girati dalle automobili. Quindi quando tu racconti di questo taxi che si schianta, cioè, è stato molto violento l'incidente. Sì, è stato violento, ma il fatto che non eravamo chiaramente preparati ad andare a sbattere contro un albero, chi lo può essere? Il fatto appunto che non abbiamo avuto dei danni, a parte un naso sanguinante o qualche bernoccolo, non abbiamo avuto nessun tipo di danno particolare, mi fa pensare che probabilmente lui non stava andando così tanto forte. Veloce anche sì, anche perché la macchina è veramente una tipo le macchine da immaginario sovietico, un rottame abbastanza malmesso, quindi se fosse stato una velocità elevata probabilmente non, gli effetti sarebbero stati ben altri. Senti, vi siete pentiti di non avere fatto il bagno nella neve con le due ragazze che avete conosciuto? Ma sì e no, perché comunque poteva essere un'esperienza divertente. E no, perché comunque in quel momento lì probabilmente era la cosa più saggia che ci era venuta in mente di fare. Senti, Paolo, lo senti ancora? Non tantissimo, perché poi le vite, le famiglie soprattutto ci hanno portato ad avere altri impegni, però diciamo sì, una volta l'anno, un paio di volte l'anno. Ah, ok, una cosa ci così. Sentiamo, rada. Sì. Andrea, se torni in Russia, facci sapere e mandaci una storia, noi l'aspettiamo. Certo, certo. Grazie mille, volentieri. In bocca al lupo per tutto. Grazie. A presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. La puntata di oggi si intitola Eccesso di prudenza e dopo la storia che abbiamo appena sentito che ci ha raccontato Andrea, ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo sempre qui a Linee d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. La prossima storia che vi raccontiamo qui a Linee d'Ombra, in questa puntata che si intitola Eccesso di prudenza, inizia in questo modo, inizia esattamente con queste parole. La mia è una storia tristissima e racconta la perdita di un quasi amore. Vi voglio raccontare questa storia perché penso che mi faccia bene immergermi in questo ricordo pieno di tristezza. Penso che mi faccia bene e anche che me lo merito. Era un momento della mia vita abbastanza difficile. Avevo finito un lavoro e non ne avevo un altro. Avevo da parte un po' di soldi, metà dei quali avevo deciso di investirli in un capo d'abbigliamento importante e comprai un cappotto invernale, perché era inverno e dormivo sui divani degli amici. La storia inizia quando cominciai a dormire sul divano di un amico di Milano che lavorava nel campo della moda e frequentava un mondo a cui non ero abituato. Ma una sera, dopo che avevo comprato il cappotto, mi disse: «Guarda, adesso che hai questo cappotto, ci penso io a tirarti su. Ti porto a fare una serata con me». Io, anche se mi sentivo un po' a disagio, mi lasciai convincere. Ecco, questo è l'inizio della storia che ha raccontato Pierfrancesco Brandimarte ad una serata di quelle che tiene Mauro a Roma, che si chiama Mio Cugino. Pierfrancesco è un autore, è uno scrittore, ha vinto il premio Calvino 2014 e questa storia è la sua. State con noi. Sapevo che mi sarei trovato in un ambiente in cui c'era una certa eleganza, una certa ricchezza e ricercatezza, e nonostante il mio cappotto nuovo e pregiato, io ero uno che dormiva sui divani degli amici. E quella sera andammo in un attico di un giovane avvocato che aveva preparato questa festa privata con tutti i dettagli curati. C'era la sala con le luci in penombra, una console per il DJ set, una sala per chi voleva ballare e c'erano degli uomini in un angolo che guardavano sto gruppo di ragazze bellissime con dei bei vestiti molto decorate. E c'era il tavolo con il buffet e sopra quella cosa un po' cinematografica con la bacinella con un coppino pieno di punch. Gli uomini avevano in mano dei drink che preparava il padrone di casa, ma io, siccome non ero in confidenza e mi sentivo un po' a disagio, bevevo il punch con le ragazze, anche sperando magari di entrare un po' nelle loro simpatie. Bevo questo punch e guardo che nella pista da ballo c'è questa donna meravigliosa, bellissima, tant'è che penso che non le potrò nemmeno parlare, perché era veramente statuaria, bionda, con questi occhi molto verdi e questo vestito, soprattutto, che non potevo abbassare lo sguardo perché era, insomma, di moda, però aveva io sono molto esperto di moda e conosco. Non vi dico i nomi tecnici per non mettervi in imbarazzo, a disagio. E aveva tutte delle cose di fuori, insomma, no? E quindi mi colpiva molto. La ragazza era molto, insomma. Però a un certo punto si fa buio. È una delle poche volte in cui non mi ricordo nulla. Non mi sembra di aver bevuto così tanto e mi convinco che il punch sia drogato. Mi vergogno tantissimo di essere così fuori di me e me ne torno a casa. Ma il giorno dopo trovo che nel mio profilo Facebook c'è una richiesta di amicizia da parte della ragazza bellissima che ballava da sola la sera prima, insieme a dei messaggi molto calorosi in cui mi invitava ad uscire la sera stessa. Io ero felicissimo perché mi dicevo: chissà come sarò stato bravo ieri. Ho anche pensato che da ubriaco avessi detto delle cose intelligenti. E siccome scrivo di mestiere, ho pensato come fossi dato delle arie e poi avevo il mio cappotto nuovo e chissà come mi ero atteggiato. E quindi ci diamo appuntamento per un aperitivo a Milano. Lei viene con una pelliccia bianca che a camminarle vicino mi sembra di stare nella dolce vita di Fellini. Andiamo in un locale bellissimo sui Navigli, dove bevendo un aperitivo lei mi dice che è slava di nascita ma vive tra Milano e New York e fa la stilista e la modella. Io cerco in ogni modo di entrare nelle sue simpatie, ma forse per la tensione di essere in giro con una ragazza così bella, forse perché ancora provato dalla sera prima, ho la salivazione azzerata. Avrei voluto baciarla, però ero davvero asciutto. Prima di uscire dal locale, io soffrendo pago il conto, perché comunque è vero che lei vive tra Milano e New York, ma io non voglio essere da meno. So beautiful to me, you are so beautiful. To me, can't you see? Alla fine di questa serata ci diamo un bacio che è orrendo per via della mia salivazione, ma mi rimane questo grande desiderio e nei giorni successivi continuiamo a scriverci fino a darci un altro appuntamento che io capisco è quello decisivo e mi impegno perché lo sia. Lei mi dice: guarda, faccio scalo con l'aereo perché ho dei lavori a Verona, ho una notte a Verona, se vuoi ci vediamo. Quindi già era licenziosa l'offerta, no? Quindi io studio la mappa, vedo tutti gli Airbnb, vedo le trattorie, tutti i posti, dico: adesso organizzo tutto, no? Così mi vesto sempre con lo stesso cappotto, no? E l'aspetto, lei arriva bellissima come sempre con dei vestiti molto appariscenti e io le dico: dai, andiamo a mangiare. Sì, sto morendo di fame. E mentre la guido verso questa trattoria, eravamo di fronte all'arena, lei dice: no, andiamo dal mio amico Luciano che ha il ristorante qua. E infatti ci arriviamo. Il ristorante di Luciano era di quelli con le stelle, uno di quelli che già entrando nella soglia faccio un calcolo di quello che ho nella mia carta di credito. Cerco di prendere tutto quello che costa il meno possibile, come in un film neorealista. Lei prende invece piatti che appena assaggia e lascia a metà. Sul finale lei ordina uno champagne, senza pietà. Ce ne facciamo un bicchiere, forse poco di più a testa, e ci alziamo. Io guardo quella bottiglia mezza piena sul tavolo. Reprimo l'istinto che me la farebbe portare via e mi sento un pezzente. Pago la cena con una strisciata della carta che è come una lama che mi taglia in due e poi si arriva al dunque. al momento di andare a letto. Il B&B che ho preso viene liquidato perché lei si dirige verso un 5 stelle Vista Arena e chiede una suite alla reception. Io ormai sono in ballo e devo ballare. Vado nella suite, mi concentro per la serata e tutto va alla grande. Il mattino dopo lei si sveglia molto presto, mi dice che deve partire per lavoro. Frettolosamente mi saluta, mi bacia, mi carezza e io frettolosamente cerco di domandarle delle cose, tipo chi paga l'hotel. Ci provo ma non ci riesco. Lei se ne va e io mi trovo in questa bellissima stanza, con vista arena, disperato, pensando di chiamare a casa e confessare tutto. Alla fine decido che comunque sia è giusto andare fino in fondo e fare la colazione a buffet. Dopo la colazione non ho più scuse, indosso il mio cappotto e con molta dignità scendo alla reception e mi presento al concierge. Lui controlla per un tempo che mi sembra infinito e poi mi dice: «La signorina ha già pagato tutto». Al momento mi sembra un happy end, ma appena esco dalla porta dell'hotel mi si insinua una nota di amarezza dentro. Sapere che ha pagato lei al nostro primo appuntamento non mi piace e comincio a pensare che non posso stare al suo livello. Dal semplice pensarlo al convincermene del tutto ci metto poco e la nostra storia prende la strada del declino. Lei mi chiama, mi cerca, vuole venirmi a trovare dove vivo, vuole vedere la vita vera di uno scrittore, sperimentarla, ma io sto sui divani e seppur a malincuore non posso invitarla. Ma lei non demorde, insiste così, per mettere fine a questo supplizio, mi invento la scusa definitiva. «Sono fidanzato», le dico, «il mio con te è stato un colpo di testa, ma ora sono ritornato fedele». «Ti scrivo ettolitri, dendecasillabi, pensarti tutta quante quel che un uomo vuole, e a furia di desiderarti, di descrivere le parti del tuo corpo mai ridotto a uno scrittore. Son bella un rudere, la barba pizzica, questa camicia se ne andrebbe volentieri in tintoria da sola. Se potesse lo farei io ma non posso, non adesso che ho da scrivere di te. Serve l'amore per scrivere miliardi di poesie piene di rose e di tutte quelle altre smancerie analfabetiche, rime senza originalità. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'ha raccontata appunto Pierfranco Brandimarte a mio cugino la serata che Mauro cura e fa e mette in scena a Roma quando era possibile e quando tornerà ad esserlo ovviamente dopo i problemi legati al Covid. Pierfranco Brandimarte ha scritto un libro molto bello che si chiama La mala assunta, che ha vinto appunto, come dicevamo in apertura, anche il premio Calvino nel 2014, e questa storia è una storia che ha un velo di tristezza molto profondo e che parla moltissimo anche dell'eccesso di prudenza, che è il titolo della puntata di oggi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, il legionario. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova... Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Linee d'Ombra. Si è conclusa proprio lo scorso fine settimana il premio Pieve Saverio Tutino 2020, era la sua 36esima edizione. Io mi ricordo molto bene quando ci sono stato la prima volta, e ci sono stato perché Nicola Maranesi e perché l'organizzazione del premio mi aveva chiesto di leggere degli stralci degli 8 diari finalisti, tra i quali poi la giuria avrebbe scelto il diario che avrebbe vinto quell'edizione. Era il 2017 e in quell'anno appunto tra i vari finalisti del premio Pieve c'era la storia di questo giovane uomo che per una stupidaggine, per un colpo di testa, aveva lasciato l'Italia, aveva lasciato Venezia, la sua famiglia, e si era recato in Francia. Era scappato in Francia e lì si era arruolato nella legione straniera quasi per scappare alla giustizia. Ricordo molto bene quella giornata, ricordo purtroppo pioveva, quindi non si poteva stare all'aperto nella piazza del paese, ma si stava sotto questo tendone, e ricordo tutti e 8 i parenti barra amici che erano lì presenti, perché questi diari sono consegnati all'archivio da qualcuno, e di solito qualcuno è un parente. C'era però ad esempio un fotografo a cui era stato consegnato un diario trovato non so dove da qualcuno, che gli aveva detto: ho trovato questo, tu magari sei del mestiere, sai farne qualcosa più di quanto potrei farne io, e lui l'aveva portato all'archivio. Quindi ci sono parenti, cugini, nipoti, in alcuni casi ci sono gli stessi diaristi, che magari sono persone anziane che hanno consegnato il diario di una vita. Ecco, e in quel caso io conobbi Gianni Cocco, che era questo uomo, questo signore molto distinto, bianco di capelli, che aveva portato le lettere di suo fratello che era partito per la Francia e per la legione straniera. Lui se lo ricordava malapena perché era molto giovane. La voce di Gianni l'avete sentita in queste settimane di racconto, è di fatto il fratello più vicino, o meglio più vicino, è il fratello che si ricorda meno, ma si ricorda meglio la storia di Antonio, del fratello maggiore che era scappato in Francia e si era arruolato nella legione straniera. Ricordo molto anche la sensazione di commozione estrema quando il premio alla fine della giornata venne consegnato proprio a lui per le lettere del fratello. Quelle lettere sono diventate un libro, si chiama La ridotta Isabelle, la trovate in libreria o online, e qui potete sentire la storia raccontata, raccolta da Mauro Pescio, del protagonista, quel giovane uomo scappato da Venezia per la legione straniera. Si chiama Antonio Cocco. Accanto alla durezza dell'esercizio fisico, a Sidi Bel Abbès, gli addestratori impartiscono ai cadetti una serie di prescrizioni ossessive per mantenere il decoro esteriore, ma ancor di più per modellare l'attitudine all'obbedienza. Quanto più le prescrizioni regolamentari sono minuziose e apparentemente incomprensibili, tanto più sono funzionali alla sottomissione psicologica. Il legionario può fare di tutto, basta che non pensi. Avevamo stirato e lavato le uniformi da parata fino a renderle immacolate, come volevano i caporali. Dovevano essere cucite le mostrine d'ottone, stirate le pieghe sul davanti e sul retro della camicia. Ogni piega doveva essere netta e dritta. Non era tollerata nessuna doppia piega, nessuna sovrapposizione o grinza. Su ciascun taschino anteriore della camicia ci dovevano essere 3 pieghe che scendevano verticalmente sulla spallina. Le pieghe dovevano essere distanziate esattamente 35 mm. La parte posteriore della camicia doveva avere 3 pieghe orizzontali e 3 verticali. Quelle verticali dovevano essere distanziate 53 mm. Passammo ore nel tentativo di riuscirci. Ogni volta, invariabilmente, i caporali misuravano le pieghe e ispezionavano ogni lato della camicia in cerca di eventuali grinze o difetti di stiratura. E la stessa esasperante precisione va applicata anche al rifacimento dei letti. Le coperte vengono ripiegate in quadrati perfetti e deposte in fondo al letto. Le lenzuola vengono arrotolate in 2 cilindri. Uno viene posto sul lato destro del quadrato della coperta, l'altro sul sinistro. Il cuscino viene messo sopra, esattamente al centro. Una volta sistemati i letti, ogni uomo spazza il pavimento sotto e intorno al suo letto, poi lo lava accuratamente con uno straccio bagnato. Il legionario vive nel sudore e nella polvere del deserto, ma la caserma deve essere sempre perfettamente pulita. Dobbiamo continuamente spazzare il pavimento e le scalinate, lavate a fondo 2 volte al giorno dai piantoni. quando il vento trasporta la sabbia o quando piove, le operazioni si ripetono all'infinito. Il piazzale della caserma viene tenuto in ordine dagli addetti al servizio. Allora dobbiamo raccogliere qualsiasi cosa si trovi a terra, mozziconi di sigaretta, foglie, frammenti di giornale. Il cortile deve sempre essere lindo sotto il sole africano. In tanti anni di servizio non ho mai visto una caserma, un avamposto, un fortino che non venisse scrupolosamente pulito e ispezionato più volte al giorno. Guai all'uomo che ha la polvere sotto la branda. La prima volta sono 4 giorni di corvée in più, la seconda 8 giorni di prigione. La pulizia è la cosa più affine alla devozione che la legione pretende. Attraverso il rigore formale, il legionario entra in contatto con una contraddizione evidente. Da un lato, l'ordine da parata che vige nella guarnigione. Dall'altro, l'aspetto caotico e cencioso della truppa durante la marcia. Quando marciamo siamo i soldati più trasandati da vedere. In guerra ciò che conta è combattere. Finché un uomo è in grado di combattere, il modo in cui è vestito ha un'importanza secondaria. Ci affaniamo per miglia in file disordinate attraverso immense gole, dove il terreno è cosparso di enormi massi e pietre. Si marcia, si inciampa, si cade, si marcia di nuovo. Siamo sporchi. Molte uniformi sono lacere, ci mancherebbe solo che a qualche caporale venisse in mente di guardare se i bottoni d'ottone luccicassero. Anche loro hanno divise malmesse e le facce sporche. Ciò che importa è il fatto che nonostante la fatica, siamo ancora in forze e se i ribelli ci attaccano, siamo pronti a fare quadrato e a rispondere al fuoco sino all'ultima pallottola. Grazie ancora, grazie a Mauro Pescio che raccoglie e racconta questa storia, grazie ovviamente alla famiglia Cocco che ci permette di raccontarla giorno dopo giorno, la storia di Antonio e delle sue lettere. Grazie a chi rende possibile questo programma, e cioè oltre a Mauro, a Luca Micheli, ad Anita Panizza e a Paolo Corleoni che mette tutto magistralmente insieme. Ora appunto la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.